Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo parlato di un nuovo processo per la tintura della lana che riduce del 70% il consumo di energia e del 44% quello d'acqua. Questo processo si basa sull'uso di plasmi. Il plasma è il quarto stato della materia, di fatto è un gas che però, anziché essere formato da tanti atomi neutri, è formato da degli atomi a cui sono stati strappati, in parte o del tutto, gli elettroni. Per esempio di plasma è fatto il sole, ma anche le lampadine a risparmio energetico e i vecchi neon contengono dei gas che, una volta che queste lampade vengono accese, si trasformano in plasma e iniziano a emettere luce o qualcosa di simile. La caratteristica dei plasmi è di essere molto reattivi dal punto di vista chimico, e nel caso della lana di ieri il plasma veniva usato per attivare il tessuto, rendendolo insomma più ricettivo nei confronti della tintura, che così si fissa in tempi minori, con temperature più basse, si passa da quasi 100 a 20 gradi con meno consumo di materiali e così via. I plasmi però hanno moltissime applicazioni diverse per quanto concerne il trattamento delle superfici, e per parlarcene è tornato a trovarci Davide Damoso, che è direttore innovazione e sviluppo dell'Environment Park, dove c'è questo laboratorio dei plasmi, molto molto attivo anche lui, insomma. Buonasera Damoso, bentornato. Buonasera, bentrovato. Senta, allora, vabbè, che cos'altro si può fare? Abbiamo detto attivare le superfici, per esempio, della lana per tingerla, che altro? Ma insomma, il plasma, proprio per come è stato definito, può fare, diciamo, tre grosse categorie di lavoro, insomma, no? Se utilizzato in maniera intelligente. Può depositare del materiale, quindi conferendo al supporto delle caratteristiche migliorative. Quindi in questo caso gli atomi che costituiscono il plasma che finiscono per appoggiarsi sulla superficie formando uno strato, una cosa del genere. Funziona come il plasma, la zona di plasma funziona come un reattore chimico, no? All'interno del quale, grazie all'energia che il plasma ha, vengono promosse reazioni di deposizione, okay, no? Di un materiale che viene iniettato apposta, no? Okay. Quindi questo è la prima grande famiglia. Poi il plasma può essere utilizzato per togliere, quindi esattamente il contrario, quindi togliere materiale da una superficie e quindi renderla più compatibile a successive lavorazioni, oppure può essere utilizzata, ed in parte il discorso che abbiamo fatto sulla lana, ma anche altre numerosissime applicazioni, quella di funzionalizzare, quindi in qualche modo innestare o rompere o modificare comunque dal punto di vista chimico la superficie per conferirgli delle caratteristiche che normalmente non ha. Non avrebbe. Ecco, facciamo qualche esempio, cominciamo magari da quest'ultima. Vabbè, un esempio era proprio quello che abbiamo fatto sui tessuti, lì abbiamo trasformato un qualcosa di idrofobo in idrofilo, okay. Si può fare il contrario, passare da una cosa idrofila a farla diventare idrofoba, una funzione piuttosto innovativa che stiamo seguendo con parecchio interesse, tutto il campo delle applicazioni biomediche, quindi quello di andare a lavorare sul trattamento superficiale di innesti che vengono fatti a livello di protesi all'interno del corpo, per promuovere, per migliorare l'affinità di questi innesti con i tessuti con cui vengono a contatto, e quindi migliorarne l'integrazione. Cioè fare in modo che la protesi venga assorbita, tra virgolette, venga agganciata bene dall'organismo. Assolutamente. Ecco, esempi invece di che cosa si può fare usando i plasmi per deporre un materiale, uno strato di materiale, lì a che fini si fa questo? Allora, i depositi, diciamo, noi le esperienze più interessanti che stiamo facendo sono proprio a livello di promuovere ad esempio il miglioramento di effetti barriera di materiali che si utilizzano per il packaging, per esempio nell'industria alimentare, quindi migliorare quelle che è l'impermeabilità di questi packaging a diciamo fattori che possono essere degradanti, diciamo, insomma, degradanti per la qualità del cibo, no? Io so che per esempio si possono rendere idrofobi i tessuti, per cui dopo quando ti cade sopra dell'acqua questa rotola via e non ci si bagna. E invece un ultimo per chiudere, insomma, abbiamo detto che questi plasmi possono anche essere utilizzati per ripulire le superfici, per togliere quello che c'è sopra. Questo forse è una delle applicazioni, se vogliamo, più semplici, no? E le prime, che un po' sono più state brutale anche, no? Perché sono sostanzialmente delle interazioni più fisiche, se vogliamo, rispetto a tutta la chimica di cui abbiamo parlato prima, no? Tutte le volte che si deve fare un trattamento superficiale su un polimero, che sia una verniciatura, un incollaggio, no? Allora è molto utile utilizzare il plasma per pulire la superficie, quindi fare un etching, una ablatura, no? E rendere più rugosa la superficie per migliorarne il contatto con il substrato che viene utilizzato. È un po' come quando passiamo la carta vetrata sul legno prima di dipingerlo in fondo, no? Sì, il principio è quello, qui andiamo molto più a fondo, abbiamo anche la possibilità non solo di emulare la carta vetrata, ma anche di emulare il solvente, no? Perché diciamo, se l'avete molto fine questa carta vetrata, esatto, voi, rispetto a quella che si trova da ferramenta. Grazie Davide D'Amosso. Grazie molto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.